Benvenuti a una nuova analisi. Oggi abbiamo tra le mani qualcosa che, onestamente, non avrei mai pensato di trovare così interessante. Un manuale utente. Sembra noioso, detto così. Esatto, di solito sono la cosa più noiosa del mondo. Ma questo è per un'applicazione che si chiama Queer Side Story. E, sfogliandolo, mi sono reso conto che non è affatto un semplice editor di testo. C'è un'idea, un'architettura dietro, che sembra quasi un manifesto. La nostra missione di oggi è proprio capire come un pezzo di software possa diventare uno strumento culturale. Uno strumento pensato per dare voce a un certo tipo di storie e forse per agire contro il pregiudizio. Perché il manuale stesso, guarda, ci toglie ogni dubbio fin dalla prima pagina. Non c'è bisogno di interpretare, è tutto dichiarato. Cito direttamente dall'introduzione. Dice: Queer Side Story è uno spazio digitale dedicato alla creazione di narrative queer che esplorano temi di identità, desiderio e famiglia scelta. Ah, quindi lo dicono proprio loro? Assolutamente. E aggiunge che lo scopo è celebrare la visibilità e la gioia della comunità LGBTQIA+. Questo cambia tutto, capisci? Non stiamo analizzando un programma, ma una filosofia messa in pratica. Ogni funzione che vedremo, dalla struttura ai dettagli, è una conseguenza diretta di questa missione. Ok, allora entriamoci dentro. La prima cosa che mi ha colpito aprendo l'app è che non ti trovi davanti la classica pagina bianca col cursore che lampeggia. Ci sono tre ambienti di lavoro e la mia reazione iniziale è stata: non è un po' troppo prescrittivo? Non rischia di limitare la creatività? È un dubbio legittimo. Il primo ambiente è quello che chiamano stesura. E quello è abbastanza standard, è la pagina dove scrivi. Ma non parti da lì. E questo è il punto cruciale. Tu sollevi il rischio della standardizzazione, ma il design risponde a un problema molto più comune, cioè la paura della pagina bianca. L'approccio qui è basato su un concetto pedagogico che si chiama scaffolding. Impalcatura. Un'impalcatura, ok? Esatto. Non ti dicono cosa costruire, ma ti danno una struttura sicura da cui partire. Invece di lasciarti nel vuoto, ti guidano verso il secondo ambiente, quello che chiamano scalette, note. Ed è qui che la mia percezione ha iniziato a cambiare. Non sono scalette generiche, tipo il viaggio dell'eroe. I titoli sono incredibilmente specifici e carichi di significato. Il manuale ne elenca 10 più 10 situazioni più brevi. Te ne leggo un paio. La corrispondenza cifrata. Che fa pensare subito a qualcosa di storico, di nascosto. Esatto. Lettere d'amore segrete. Oppure l'eredità della ballroom, che evoca un'intera sottocultura con le sue regole e la sua arte. O ancora, tra le situazioni, il coming out, la scelta del nome. Sono momenti fondamentali. Vedi come funzionano? Non sono gabbie, sono porte d'accesso. Proporre una scaletta intitolata Il primo Pride non significa dire scrivi una storia su questo. Significa dare accesso immediato a un universo di emozioni, di conflitti, di trionfi che sono culturalmente specifici. È un modo per dire a chi scrive la tua esperienza fa parte di una storia più grande e merita di essere raccontata. Proprio così. Ecco un modo per iniziare a darle una forma. Abbassa la soglia dell'intimidazione. C'è anche un dettaglio quasi banale, ma che trovo geniale. La funzione Prendi. Clicchi questo pulsante e la scaletta viene copiata subito nell'editor. Pronta. È un gesto semplice che trasforma la scrittura da performance, dove devi dimostrare di essere bravo, a un atto di esplorazione. Vero. Non devi essere uno scrittore professionista, devi solo essere curioso. Stanno, in un certo senso, democratizzando il narrare per una comunità, la cui rappresentazione è stata per troppo tempo controllata da sguardi esterni, spesso stereotipati o ostili. Ok, quindi hai l'impalcatura, la struttura. Ma poi hai bisogno dei mattoni per costruire. E qui arriviamo al terzo ambiente, materiali. E questo, per me, è il punto in cui ho capito tutto. L'ho trovato sbalorditivo. È una specie di archivio culturale, curato. È molto più di una lista di idee. Esatto. Il manuale lo divide in tre repertori. Il primo sono gli ambienti. 30 luoghi iconici o safe spaces, spazi sicuri. Esempi, la libreria femminista, il backstage di un teatro. Spazi che non sono solo sfondi, ma hanno un'anima, una storia. Un backstage di un teatro non è un luogo neutro, è uno spazio di trasformazione, di identità costruita, di comunità. Esattamente. Poi ci sono gli oggetti, 30 elementi carichi di simbolismo. Qui la lista è pazzesca. Si va da un riferimento storico come il garofano verde, e ammetto che ho dovuto cercarlo, è un richiamo a Oscar Wilde. Certo. A un oggetto super contemporaneo come la spilla con i pronomi. E infine, la parte più potente, 30 archetipi di personaggi. E anche qui mi aspettavo dei cliché, e invece leggo la drag mother, l'attivista trans e persino l'avvocato dei diritti civili. Non è un trope, è un ruolo sociale. Quello che l'ambiente materiali fa è fornire un vocabolario condiviso per costruire autenticità. Prendiamo il garofano verde. Dare a chi scriva questo mattone non è solo un suggerimento, è consegnare un pezzo di storia. Certo. Inserire quell'oggetto in una narrazione la connette immediatamente a un secolo di resistenza, di identità nascosta. È un codice. Chi fa parte della comunità lo riconosce e chi non ne fa parte può imparare qualcosa. È un atto educativo mascherato da elemento narrativo e una specie di corso accelerato di semiotica nascosto in un menù a tendina. Proprio così. E la stessa cosa vale per i personaggi, no? Offrire l'archetipo dell'avvocato dei diritti civili va in una direzione opposta alla rappresentazione classica. Completamente. E lo fa in modo deliberato, strategico. Per decenni i personaggi queer nei media erano confinati a pochi ruoli. La macchietta comica, la vittima tragica, l'amico spiritoso. Erano funzioni narrative al servizio di storie di altri. Offrire invece archetipi come l'attivista trans o la drag mother è un invito a raccontare la complessità, la leadership, la cura, il conflitto e la diversità all'interno della comunità. Si sta dicendo: le nostre vite sono il centro della storia. E questo è un modo potentissimo per smontare i pregiudizi, che si nutrono proprio di rappresentazioni piatte e disumanizzanti. Quindi hai questa incredibile cassetta degli attrezzi per costruire la storia, ma il manuale parla anche di un assistente, un'intelligenza artificiale. E anche qui il modo in cui l'hanno implementata mi ha lasciato a bocca aperta. È una scelta che tecnicamente va completamente controcorrente. In che senso? Invece di collegarsi a un cervellone su internet tipo ChatGPT, il manuale ti dice di installare un piccolo motore di AI direttamente sul tuo computer. Si chiama Olama. Sembra una scelta più scomoda. Perché mai dovrebbero farlo? La tua domanda centra esattamente il punto. Perché renderlo più difficile? La risposta è che per la comunità a cui questo strumento si rivolge, la privacy non è una feature opzionale. È un prerequisito fondamentale. È una questione di sicurezza. Ah, certo. Pensa alle storie che potrebbero essere scritte qui. Racconti profondamente personali, di scoperta dell'identità, di relazioni, di coming out, magari in contesti difficili. Sono dati estremamente sensibili, ovvio. Esatto. Far girare l'intelligenza artificiale in locale, sul computer dell'utente, significa una cosa sola. Nessuna di quelle parole, nessuna di quelle storie, lascia mai la macchina di chi scrive. Non viene inviata a un server di una grande azienda, non viene usata per addestrare modelli futuri, non viene archiviata. Privacy totale. Totale. E controllo assoluto. In un mondo dove barattiamo i nostri dati per un po' di comodità, questa non è una scelta tecnica, è una dichiarazione etica fortissima. Il manuale entra persino in dettagli che sembrano per programmatori. C'è una sezione che spiega come impostare le variabili d'ambiente. Una certa OLLAMA Horizons Origins. Sembra un dettaglio per pochi, ma immagino che anche questo abbia un significato. Certo che ce l'ha. Non è importante che l'utente capisca la tecnologia dietro. L'importante è il segnale che quel dettaglio invia. Includere una piccola istruzione tecnica significa trattare l'utente non come un consumatore passivo, ma come una persona competente a cui affidare il controllo del proprio strumento. È un gesto di rispetto. Esatto. Dice: ti diamo un potere in più e ti diamo anche le istruzioni per usarlo. Ci fidiamo di te. Riflette una filosofia che mette al centro la sicurezza, l'autonomia e l'empowerment. Ok, facciamo un passo indietro e guardiamo il quadro completo. Siamo partiti da un manuale utente e ci troviamo di fronte a un ecosistema, un percorso guidato. Parti da una scaletta che ti dà una struttura. La arricchisci con i materiali, che infondono autenticità e profondità culturale. E infine scrivi, nella stesura, con l'aiuto opzionale di un AI che rispetta la tua privacy in modo assoluto. È esattamente un dispositivo culturale. Non è una tela bianca, neutrale, è uno strumento con un punto di vista molto chiaro. Fornendo le fondamenta, i mattoni e un assistente sicuro, questo software fa due cose. Primo, abbassa le barriere alla creazione e secondo orienta questa creazione verso la ricchezza e la specificità. E questo ci riporta al nostro tema iniziale, la lotta al pregiudizio. Ecco, come si collega tutto questo concretamente a contrastare i pregiudizi che vediamo riemergere? Si collega in modo viscerale. Pensa questo. Il pregiudizio si nutre di caricature, di ignoranza, vive di immagini astratte, disumanizzate. Ma cosa succede quando una persona che ha in testa solo stereotipi legge una storia creata con questo strumento che parla della drag mother non come una macchietta da talk show, ma come una mentore che ha letteralmente salvato un ragazzo cacciato di casa, creandogli una famiglia scelta? Diventa una persona reale? Esatto. Quella non è più una caricatura, è un essere umano. L'empatia smonta il pregiudizio pezzo per pezzo, e questo software è una fabbrica di quei pezzi. Quindi non si tratta di scrivere slogan o pamphlet politici. No. Ma di raccontare storie umane. Esattamente. L'antidoto più potente all'odio è l'empatia, e l'empatia si costruisce solo attraverso la narrazione. Aumentare il volume e la diversità delle storie LGBTQIA+ in circolazione. Storie che mostrano gioia, complessità, amore, fatica. E normalità. E assoluta normalità è l'atto politico più efficace. Significa popolare l'immaginario collettivo di umanità, rendendo molto più difficile quella disumanizzazione su cui prospera il pregiudizio. È davvero incredibile. L'analisi di un documento all'apparenza così arido ci ha svelato un progetto con una consapevolezza culturale, politica e tecnologica che ha pochi eguali. Lo scopo va ben oltre la scrittura. Si tratta di costruire un archivio di esperienze, dare forma a una memoria collettiva. E di fornire a una comunità gli strumenti per raccontarsi con le proprie parole e al sicuro. Assolutamente. Pirata, con i suoi repertori specifici di simboli e archetipi, può essere costruita per dare voce e dignità a questa comunità? Quali altri repertori potrebbero essere progettati? Quali altre esperienze umane oggi rimangono inascoltate, sottorappresentate o raccontate solo attraverso lo sguardo deformante di altri? E quali strumenti, come questo, potremmo immaginare e costruire per dare finalmente a quelle storie lo spazio, la struttura e la voce che meritano?